Ehi? Gallo? Guarda che non c'è bisogno che prendi le mie parti, hai sempre preso i miei scarti. Se venite nel mio bagno vi prendo a calci, poi torni dalla mammina e piangi. Tranquilli, in quel bagno non ci vengo più, è solo un orribile déjà vu. Vado in un bagno migliore, sì, quello blu. E tra angeli e demoni e non tra le palme, voi che siete abituati al lusso levatevi dalle palle. Carissimo, quella tipa me la sono fatta mesi fa, abbiamo già fatto bim bum bam, e adesso te la passi te? Tranquillo che conto, 1, 2, 3, poi sai che c'è? Guarda un po', torna da me. Vi ho ritrovata alle Bahama, si chiedete addio gallo, dov'è la strada che poi vi porta a fare la nanna a casa? E mi potete chiamare pure Dante, ma sai che c'è? È un nome d'arte.